Friuli nel mondo, 172esima trasmissione dedicata agli emigrati, un coro argentino e le nostre villotte. Campane al vento, cantate, risuonino villotte nel piccolo compendio del mondo, Friuli. Il battacchio continuò a suonare quando il figlio della terra dovette partire. Dolce, triste, allegro, sempre pieno di speranza, salutò la zolla, semplicemente con un mandi in cui pensa di ritornare. Il friulano lascia il suo paese rivolgendo il suo braccio e tutto il suo sforzo verso i luoghi più lontani. Alle volte non ritorna presto, allora crea il suo paese nella nuova terra. Le sue usanze più care ritornano alla luce del suo lavoro e canta. Canta sempre. Le campane immaginarie riempiono di arabeschi il cielo con le loro onde sonore. Le nubi dipingono cime nevose e di raggi di sole filtrano tra di loro formando il calice di una stella alpina. Tutta la vita del friulano si riassume in una villotta. Il disco gira e gira, avvicina la terra lontana, ne porta le voci dirette da una mano esperta ed ineguagliabile che pure lontana dalla sua terra, la ama, la ricorda e la rivive per mezzo di uno strumento divino, la voce umana. Così scrive Svana Cvitan nel presentare le villotte che il coro Agrupación di Buenos Aires, diretto dal friulano Rodolfo Kubik, esegue perché siano conosciute ed apprezzate nella Repubblica del Plata anche dagli argentini. Ascoltate, nell'interpretazione di questo complesso corale bonariense, Friul Emigrant di Albino Torre, Stelutis Alpinis di Arturo Zardini, Donge un Troi di Francesco Locatelli e Albino Torre e La Staiare di Carletti e Zardini. Amen. Quindi palpitata, ad ogni pirule frivole cade, scotulis fra i talfonade, scotulis sul ciò. Abitito, c'è valesio mai di fa, dome di cui età, la me passio. E così nella cocume escita al fresca astuziche son gli stelli che slussinin tignin si parlavan le grifin che si divis tachin insieme a mis tachin ulcia bimba bimba l'allegria bimba bimba la compagnia assistavo ogni dolor, viva il vin e viva l'amor, viva viva l'allegria, viva il vin la compagnia, assistavo ogni dolor, viva il vin e viva l'amor. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.